Mecostralis Iveco risparmiare non è una missione impossibile. Con i nuovi motori EV hai fino al 7% in meno di consumi. Ecostralis, la formula perfetta che unisce economia ed ecologia. Uomini e camion. Trasmissione quotidiana sull'autotrasporto. Un programma a cura di Massimo Quaglio. Benvenuti all'ascolto di Uomini e Camion, al microfono Iari Selvetella. Stasera viaggeremo sulle rotte internazionali, quelle percorse dai container.